Siamo arrivati come promesso al secondo appuntamento della settimana. Cosa cambia rispetto alle settimane precedenti? Che già lunedì vi avevamo parlato di un evento che è Europa Vox, che si terrà a Bologna il 6 e 7 dicembre, quindi tra pochissimi giorni, e proprio come lunedì abbiamo scelto di intervistare una delle artiste che si esibirà appunto sul palco del Teatro Comunale di Bologna. Hai detto bene, una delle artiste, perché lunedì abbiamo intervistato Giungla, che sarebbe lo pseudonimo di Emanuela Drei. Tra l'altro trovate l'intervista sul nostro sito festivalsbackpack.it o sul sito di Radio Città Fujiko, ovviamente. Radiocittafujiko.it. Oggi intervistiamo un'altra artista, sempre donna, sempre molto interessante, che ci è piaciuta molto, che si chiama Beatrice Antolini. Io penso che alcuni di voi già la conosceranno, perché effettivamente lei suona da diversi anni, è un'artista molto brava e molto interessante nel panorama musicale italiano, e proprio per questo abbiamo pensato di presentarvela, di fare quattro chiacchiere con lei, di parlare degli ultimi lavori, di come si sta sviluppando il suo percorso musicale. Sì, ad esempio ci ha parlato un po' dell'ultimo album uscito nel 2018 che si chiama Lab, L'Ab. Un titolo un po' enigmatico forse. Ma ce lo spiegherà lei appunto in questa intervista, quindi noi vi lasciamo con un suo pezzo. Vi ricordiamo che Europa Vox Bologna si tiene il 6 e 7 dicembre, quindi venerdì e sabato di questa settimana. Non prendete impegni, o se li avete presi cancellatevi. Il luogo in cui si terrà questo evento è il Teatro Comunale di Bologna. Per accedere c'è un biglietto che costa 15 euro se lo comprate sul posto, oppure un pochino di meno se lo comprate prima. Noi ve lo consigliamo perché è un festival che presenta, diciamo, il panorama musicale europeo senza confini, e proprio per questo porta diversi artisti europei da diversi paesi dell'Europa a suonare a Bologna. Esatto, per l'esattezza Beatrice Antolini suonerà venerdì insieme a artisti provenienti da Austria, Estonia, Germania, Francia, Inghilterra, non mi ricordo più bene. Comunque sul sito trovate tutte le informazioni, perché c'è veramente un pupurri di gente e artisti molto molto interessanti. Vi lasciamo all'intervista a Beatrice Antolini e ci vediamo a Europa Vox. Thank you. Siamo al telefono con Beatrice Antolini, che questo weekend si esibirà a Bologna per Europavox. Ciao Beatrice, grazie mille di essere qui con noi. Partiamo Ciao, ciao, grazie a tutti voi, grazie mille. con le domande. Allora, la tua biografia esplicita che la musica è con te da sempre, cioè già 3 anni suonavi il piano, poi col tempo anche altri strumenti. E qual è il ricordo più significativo che hai del tuo ingresso nella musica, nella tua vita? Ma guarda, ci sono state sempre delle cose quasi incredibili. Io questa cosa la dico sempre, cioè, mi sono capitate delle cose incredibili fin da piccola, quindi evidentemente era un po' la mia strada, no? Più la seguivo, più mi succedevano cose incredibili. Tanto che una delle cose incredibili, parlando appunto di personaggi non italiani che mi hanno voluto con loro, è stata sicuramente quando ho suonato, fatto quel famoso tour con la Lydia Lunch. Insomma, quella è stata un'esperienza, ero molto giovane, quindi è stata un'esperienza sicuramente molto molto importante per me. Per non parlare poi delle reazioni ai miei dischi, che per quanto io non sia un campione di incassi, però sono sempre stata un campione di recensioni, ecco, ho avuto sempre una critica molto positiva, quindi questo mi ha reso sempre molto fiera. E diciamo che la cosa più sconvolgente è stata vedere l'afflusso di pubblico che ho avuto con il primo disco e col secondo disco, questo sicuramente. Il tuo primo disco, tra l'altro, datato 2006, poi ne sono arrivati tanti altri. L'ultimo è Sì. AB nel 2018. AB. Lab B. Sì, con la L, Ok. Ah, l'apostrofo AB. ok. Del 2018, quindi dell'anno Sì, scorso. E in sì. tutta la tua carriera hai esplorato, mixato generi musicali, a volte anche in antitesi tra loro, quasi. E in che modo scegli e prendi le influenze dai vari generi musicali, dalle varie ispirazioni? Ma guarda, io sono una curiosona, quindi fin da piccola poi ho iniziato a fare generi disparati, nel senso io facevo la mia musica che era sempre strana e è sempre rimasta comunque molto particolare, su quello non sono mai cambiato, ho sempre seguito la mia strada su quello lì, non mi sono fatta mai corrompere, influenzare a costo proprio anche di perdere pubblico, perché ho seguito sempre la mia strada. Ho voluto fare dei dischi completamente diversi uno dall'altro, cioè sono passata veramente dal progressive all'afro beat, cioè ho fatto di tutto, veramente. Ma perché mi piaceva? Perché a me piace suonare, quindi non vedevo l'ora di aggiungere novità alla mia musica. Ecco, questo sicuramente paga meno nel rispetto del pubblico che invece, sai, si affeziona a una cosa e vuole sempre più o meno quella. Però io la mia proposta è questa, quindi con tutto, nel bene e nel male, chi mi ama mi segua, che ti devo dire, è sempre stato così. Poi le collaborazioni sono state invece disparate e divertenti, nel senso che fin da piccola mi sono trovata bene anche nel pop, non ho mai avuto problemi di sorta, perché tanto la mia musica era talmente particolare che chi se ne frega, cioè potevo andare veramente a collaborare con qualsiasi genere, perché in realtà poi penso che io faccio qualsiasi genere, cioè che nella mia musica ci siano tanti generi mischiati, poi chiaramente ogni disco è diverso, quest'ultimo è deprimente, nel senso che è un disco molto serio e impegnativo sia nell'ascolto che nei testi, però è la realtà di Beatrice Antolini 2018, quella era la mia realtà, quindi io sono sempre felice di essere sincera. Poi dopo, ti ripeto, non sono una che pensa di voler piacere per forza, ma penso che questo si capisca, quindi dico sempre questo, io cerco di essere sincera, non c'è nessun altro dietro a me, quindi in un certo senso è puro, ecco, il lavoro. Fantastico, quindi insomma, quello che ti piace tu porti nei dischi, porti sul palco, poi a chi piace piace. Insomma, Eh ed è sì, giusto che sia così. mi rendo conto che la proposta non è affatto semplice, soprattutto di quest'ultimo disco. Come vedi, sono un pessimo venditore di me stesso, però, di me stessa, però in realtà è la verità. Cioè, è un disco che parla di questi anni in un modo a volte violento, perché comunque nei testi si parla di. Il fatto che ci dimentichiamo di noi stessi, che non siamo più presenti, che siamo meccanici, che siamo, ma io compresa, non è che poi io mi levo da tutto ciò. Quindi, insomma, ci sono delle cose importanti, cioè beautiful nothing, cioè bellissimo niente, no? Che siamo cosparsi a volte da questo materialismo, questo bellissimo niente, che però è bellissimo perché alla fine ci dà una soddisfazione momentanea, velocissima, ma che poi finisce subito. Quindi è bellissimo, però è bruttissimo nello stesso tempo, è la solitudine che incombe. Quindi, insomma, Diciamo che i temi di Lab sono importanti e quindi sono felice di suonarlo a questo festival, l'Europa Vox, il 6 dicembre al Teatro Comunale, perché ho voglia proprio di suonare in un contesto veramente che mi rende fiera, quello di un contesto di interscambio culturale anche con il resto dell'Europa, ecco. Sì, Europa Vox mescola gente che viene da un po' tutta Europa, anche generi diversi. C'è qualcuno, adesso una domanda un po' magari particolare, c'è qualcuno nel panorama europeo, magari che suona addirittura l'Europa Vox, con cui ti piacerebbe magari costruire qualcosa, una collaborazione? Ma guarda, a me piace molto questa artista che fa della musica elettronica, ma dire elettronica è riduttivo, che si chiama Sevdaliza, che la conoscono poi molti, è famosissima. Io anche l'anno scorso dissi, cavolo, quanto mi piacerebbe se all'Europa Vox ci fosse Sevdaliza, ma in realtà è proprio, penso che sia fuori misura, perché è comunque un'artista internazionale di un... Insomma, penso anche di un certo costo, e quindi insomma era un po' una proposta esagerata, però mi piace molto lei, ma mi piacciono, guarda, a me piacciono tante cose diverse. Di quest'anno, di questa scaletta, mi è capitato di vedere ICOS, che mi è piaciuta tantissimo, quest'estate l'ho vista, mi è piaciuta tantissimo, quindi sono felice di rivederla. Ma comunque il cast mi piace veramente tantissimo, seguirò più concerti possibili. Poi ad una certa me ne devo andare perché devo ripartire la notte per un'altra cosa, quindi purtroppo non potrò stare fino alle 3 di notte, però cercherò di stare il più possibile. Dopo il grande impegno che stai mettendo in quello che stai facendo, quindi il tour compreso Europa Vox, hai tempo anche per dedicarti a dei pezzi tuoi, qualcosa di nuovo? Allora, questa è una bella domanda perché io quando ho fatto Lab, quando ho finito il disco Lab, ho detto questo sarà l'ultimo disco che faccio in questo modo, perlomeno. Cioè da sola, a casa, nel mio studio, suonando tutto, producendo da sola, mixando da sola, tutto da sola. E siccome tutti i miei dischi più o meno sono stati così, diciamo che ho un po' di stanchezza perché è molto faticoso. Quindi, insomma, non so, in questo momento non ho le forze di rimettermi dietro una cosa del genere, anche perché poi è talmente fresco l'hub, io lo sento talmente ancora nuovo, no? Perché sai, oggi come oggi sembra che un disco dopo 2 mesi va buttato nel cestino. E invece io sono contrario a questa cosa, cioè il disco è veramente uno studio approfondito, perlomeno nel mio caso, che uno fa anche con se stesso. Quindi, insomma, ci tengo che duri un pochino nel tempo, anche perché lo sento veramente ancora nuovo, ancora da suonare, ancora da proporre, quindi c'è tempo per fare altro. Mi piacerebbe molto fare una cosa diversa, magari più avanti, un singolo, una cosa magari, io mi dico sempre, farò uscire una cosa in italiano, poi ne scrivo 100 di canzoni in italiano, ma non mi convincono mai. Quindi vediamo un po' se prima o poi questa cosa si riuscirà a fare. E nel frattempo continuo tutte le mie attività. Cioè, come sai, ho una doppia vita in un certo senso, quindi faccio altre cose, faccio tante cose sempre all'interno della musica e a me piace, cioè, mi piace essere anche performer musicale, cioè, chiamiamolo turnista, anche se sono l'ultima persona più lontana dal turnismo sono io, perché proprio non c'entra niente, con tutto il rispetto ai turnisti che ammiro, ma che sono più bravi di me, cioè, nel senso che è un altro lavoro, capito? Io mi sento più appunto una che scrive la propria musica, quindi una songwriter, ecco. Beh, intanto anche il messaggio che i dischi vanno vissuti perché in questo periodo in cui la musica deve essere tutto consumo, dischi che devono uscire per Sì. forza, insomma, anche dire che il Sì. disco va vissuto, va ascoltato per bene prima di passare a un altro, è un bel messaggio, secondo me, Sì, molto, perché molto poi no, no, non positivo. finisci di farne uno che te ne chiedono già un altro. Tu dici, ma scusa, ma l'hai ascoltato? Boh. Vabbè, Vabbè, sono d'accordissimo. viviamo in un'epoca dove su Spotify non c'è scritto neanche il disco, chi lo fa? Ecco. Cioè, voglio dire, vogliamo parlare di questo? Cioè, mettono il nome dell'artista, sì, ma se poi, cioè, io nel mio caso li faccio io, quindi cioè, non è un problema, ma se un produttore, un arrangiatore, cioè, perché non deve essere citato? Nei credits, perché non esistono più i credits? Cioè, sta roba qua è fuori di testa. Vabbè, comunque, questo è un discorso d'anziani. Evidentemente, tu hai più di 35 anni come me. Sono quasi lì, dai. Appena appena sotto, però Ok, insomma, e ho allora già sei un'altra particolarmente anziano. dentro, sì, musicalmente parlando, sì. Ok, va Allora, bene. ti faccio l'ultima domanda. Sì. Questo weekend appunto sarai il 6 a Bologna per Europa Vox ed è una città in cui tu hai anche vissuto per un certo Vivo, periodo. vivo, vivo. Ah, Io vivo ottimo. qui dal 2000, cioè questa è casa mia. Ho vissuto più qui che nelle Marche, quindi a tutti gli effetti. Sai, a New York bastano 2 anni per diventare newyorkese, a Bologna non ne bastano 20 per diventare bolognese. Quindi. Però io ho tutti i miei ricordi più belli qua. Per me la mia città è Bologna. Ah, fantastico. E allora lasciamo un messaggio a chi ci ascolta, dire venite a Europa Vox e a Sì. sentire Beatrice Antolini. Che messaggio lanciamo? Ma lanciamo il messaggio che i confini sono solo dentro il cervello, non esistono. Quindi evitiamo di confinarci. Quindi il mio invito, che è sempre stato questo in 12 anni di musica, è quello di riuscire anche noi italiani a esportarci, a partecipare alla vita musicale. E non solo musicale, questo è un messaggio poi che si può riversare anche in altri contesti, però parlando di musica, diciamo parliamo di musica, quindi della vita musicale anche del resto, non dico del mondo, ma almeno dell'Europa. Siamo europei tutti quanti, cerchiamo di accogliere la cultura che viene dall'estero, ma questo già lo facciamo e anzi a volte esageriamo in questo, e cerchiamo però di valorizzare anche la nostra, di musica, di cultura, di arte che c'è in Italia e magari grazie ad eventi itineranti come l'Europa Vox, di esportare qualcuno, magari meritevole, e qua non parlo di me, ma parlo di tutti quelli che hanno partecipato anche l'anno scorso all'estero, a suonare, a farsi vedere anche un po' nel resto del mondo. Perché poi in realtà io che ho avuto la grande fortuna in passato di suonare all'estero e fare anche dei tour, in realtà quando poi io ho proposto la mia musica in altri contesti è stata molto apprezzata, quindi non dobbiamo sempre pensare che sono dei geni quelli che vengono da fuori, noi siamo degli stronzi, si può dire, e facciamo sempre le cose meno. Non è così, perché poi quando vai, quando ti scontri, quando parli, io ho parlato tante volte con artisti anche importanti, eccetera, che hanno apprezzato la mia musica, che hanno apprezzato la mia o come quella di mille altri bravissimi che ci sono in Italia. Quindi non chiudiamoci, insomma, ecco. Perfetto, allora con questo bellissimo invito e bellissimo augurio anche per Europa Vox, ma per tutta la musica sia italiana che straniera, io ti ringrazio infinitamente per la tua Grazie disponibilità e ci a te. vediamo ad Europa Vox. Grazie a te. Perfetto, Grazie vi aspetto a mille. Europa Vox. Ciao, Fantastico, ciao. grazie mille davvero.